Investire informati. Eh sì, per investire bene, in maniera profittevole, per fare in modo che siamo sereni nelle scelte finanziarie che decidiamo di intraprendere, di sottoscrivere per il nostro benessere finanziario, ma anche per quello della nostra famiglia, bisogna avere un'adeguata conoscenza degli strumenti che si scelgono, bisogna avere un rapporto di fiducia con un consulente finanziario. Ma come sapete, voi con Investire Informati in questi ultimi 3 anni abbiamo fatto anche un altro percorso. Proviamo ad aprire i giornali di finanza, proviamo a decifrare anche quello che accade sui mercati finanziari. Cosa ci racconta i mercati finanziari in questi giorni? Che Wall Street continua a correre, la borsa americana è pervasa da un'euforia che per qualcuno comincia ad essere un po' troppa, un po' troppo esagerata, per cui attenzione che una correzione dell'andamento di questo mercato potrebbe essere dietro l'angolo. Per qualcuno invece in realtà ci sono ancora spazi di crescita e quindi le aziende americane sono sane, solide, sono un asset su cui continuare a puntare. Adesso vi racconto che cosa è successo ieri, ma vi presento anche l'ospite con cui parleremo di tutto questo, Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buongiorno, benvenuto e grazie. Buongiorno Debora e buongiorno ai radioascoltatori. Chiaramente i nostri ascoltatori, se vogliono, possono anche esprimerci le loro curiosità sull'andamento del mercato americano. Se qualcosa non vi è chiaro, ed è naturale anche che lo sia, perché non fate di mestiere i professionisti dei mercati finanziari o dell'analisi dei mercati finanziari, anche in questo caso intervenite in diretta, se volete, all'800 24 00 24. Allora, ieri una nuova seduta record per Wall Street. Il Dow Jones ha chiuso con un rialzo che può apparire molto modesto, più 0,09%, ma di questa entità modesta ne abbiamo una dietro l'altra, giorno dopo giorno, 22.661 punti per il paniere appunto americano. Per il più importante, per l'S&P 500, chiusura più 0,12%, ieri a 2.537 punti. Viaggiano sui record anche i listini Nasdaq, perché ce ne sono due importanti, il 100 e il composito. Viaggiano su valori record anche gli indici che ci rappresentano la tecnologia americana, che è molto euforica e naturalmente un settore dove si sta continuando ad investire e puntare. Ieri è stato un pochino più prudente un altro paniere molto importante, che pure considerato in maniera rilevante, è il Russell 2000, ed è quel paniere molto ampio dove si raccolgono le capitalizzazioni medio-piccole del mercato americano. Ieri è stato venduto questo indice, ma a sua volta viaggia comunque su record. Ieri sono stati diffusi alcuni dati economici, oggi ce ne saranno altri, domani c'è il dato importante sulla disoccupazione di settembre e poi continuano anche ad essere monitorate molto attentamente le parole della Presidente della Federal Reserve, di Janet Yellen. Ieri ha tenuto un altro intervento pubblico dove però non ha parlato né di politica monetaria né del suo futuro professionale, perché ricordiamo che il suo mandato scade a febbraio e il presidente americano Donald Trump potrebbe sostituirla con qualcuno che si possa definire un po' più falco, un po' più severo nella politica monetaria. Però Janet Yellen ha detto che la Banca Centrale Americana sta lavorando sodo per fare in modo che la sua regolamentazione, la sua supervisione siano fatte su misura per la dimensione, la complessità e il ruolo delle varie istituzioni nel sistema finanziario. Quindi diciamo un intervento un po' più istituzionale. Di fatto sappiamo che la Banca Centrale Americana a dicembre farà un altro aumento dei tassi di interesse, quindi cercheremo di capire come reagirà questo mercato azionario così euforico rispetto a questa prospettiva. Però Alessandro Aspesi, io vorrei commentare con lei un po' questo grafico verticale degli indici americani. Wall Street viaggia totalmente slegata peraltro dalla situazione europea, che è alle prese con le pressioni politiche. C'è ancora molta preoccupazione dopo il referendum catalano, che per la verità pare proprio che abbia avuto un esito disatteso, e a dispetto delle colorite iniziative del presidente Trump, ci sembra che l'economia americana brilli e soprattutto faccia brillare la borsa. Ci dà qualche elemento in più per capire cosa c'è dietro e dentro i continui record della borsa a stelle e strisce? Devo dire, Deborah, che nella sua introduzione ha citato la parola ansia, che riguarda diciamo le scelte di investimento di parte degli investitori privati, ed è un po' la stessa parola ammessa a fattor comune per quanto riguarda gli investitori istituzionali che incontriamo quando c'è da parlare di azionario Stati Uniti, perché è chiaro che le valutazioni sono molto alte, soprattutto in alcuni settori o per alcuni titoli, Dall'altra parte, però, facendo un passo indietro, dobbiamo anche cercare di considerare perché gli Stati Uniti sono il motore globale della crescita, l'unico motore di crescita durante la grande crisi finanziaria e oggi un motore di crescita che è sincronizzato anche con altre aree, l'area europea e l'area dei paesi emergenti. La cosa importante da considerare è che gli Stati Uniti si trovano in una situazione dove c'è una grande ripresa del mercato immobiliare, c'è un forte vantaggio competitivo derivante dal sfruttamento delle risorse energetiche tramite le tecniche shale e soprattutto c'è un sistema finanziario che è molto solido e che si trova in un certo qual modo in una situazione molto più positiva rispetto, per esempio, al mercato finanziario europeo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma sostanzialmente quello che l'amministrazione Trump sta cercando di percorrere è una via che permetta di migliorare quello che è la situazione delle tasse, soprattutto pagate dalla corporate America, quindi dalle aziende, perché noi pensiamo sempre che gli Stati Uniti siano il mercato più dinamico e più innovativo, comunque ad oggi le aziende pagano 35% di tasse sugli utili e sui profitti. Quindi, Trump si sta trovando in una situazione nella quale deve cercare, diciamo, andando mano nella mano con quella che è stato il problema della riforma dell'healthcare, che ovviamente ha un impatto in termini di costi e di deficit, deve cercare di ridurre il più possibile quello che è la tassazione sulle aziende affinché possa arrivare ulteriore miscela che vada diciamo, a generare grandi utili e grande possibilità di business per quanto riguarda le aziende americane e soprattutto quelle concentrate di più sul territorio americano. Ci ricordiamo, insomma, il motto di Trump che diceva proprio di fare grande, ancora, l'America. Great America, make again. No, Great America, Esattamente. make America great Great again. again, Senta, ma esattamente. questa riforma fiscale largamente attesa, preannunciata in campagna elettorale, poi ha fatto un po' più di difficoltà, a sviluppare i dettagli che sono stati, diffusi, la settimana scorsa, aiuterà secondo lei tutte le aziende nello stesso modo? Qualche comparto ne beneficerà più di altri? Nell'innovazione tecnologica e nella salute, dove per esempio gli Stati Uniti continuano ad essere leader indiscussi. Il serbatoio dell'innovazione è inesauribile, questo piano fiscale è atteso e quindi darà ulteriore slancio a questo comparto che già, questi comparti che già volano. Ma io suddividerei magari i settori a seconda che le aziende siano più coinvolte nel commercio globale piuttosto che più coinvolte nel commercio locale, che in questo caso è il commercio americano. Quindi, per quanto riguarda la tecnologia e la salute, sicuramente l'idea di Trump di poter rimpatriare diciamo il cash detenuto da queste aziende al di fuori degli Stati Uniti è decisamente importante per andare a migliorare ancora di più le aspettative e la sostenibilità degli utili di queste aziende. Invece il secondo aspetto che riguarda la detassazione delle aziende ha un impatto molto più importante su aziende magari legate al settore finanziario, al settore industriale, al settore dei materiali, alle aziende di piccola e media capitalizzazione che fondamentalmente sono quelle più colpite dalla tassazione attuale del 35%, perché se noi pensiamo a grandi nomi come Amazon, Google e via dicendo, è all'ordine del giorno il fatto che sia molto più importante il domicilio fiscale rispetto al domicilio dove poi viene E effettivamente infatti, fatta l'attività. basti vedere l'esatto, il caso Amazon, come lei ha citato poco fa. Esattamente, esattamente. Quindi questo tipo di manovra ha, per quanto riguarda Trump, più un obiettivo di fare riprendere l'America locale e le aziende di media e piccola capitalizzazione americane. Certo, Aspesi, politica monetaria. Le banche centrali ci hanno ormai abituato che ogni iniziativa di politica monetaria viene annunciata con largo anticipo per non spaventare il mercato o magari per non galvanizzarlo esageratamente quando non è il caso. Il mercato quindi viene sempre preparato con molta attenzione ad ogni iniziativa. Dunque, il mercato statunitense è pronto al nuovo aumento dei tassi di interesse di dicembre? Lo sa che c'è un ascoltatore che dice: Deborah, non ci sarà nessun aumento dei tassi, vuole scommettere. Lei da che parte sta? E soprattutto questo aumento ampiamente preannunciato da settimane, secondo lei penalizzerà comunque qualche settore o ormai tutti i comparti delle aziende quotate hanno digerito questa prospettiva? Vabbè, guardando le valutazioni del mercato americano, mi sembra chiaro che le valutazioni incorporino già almeno un rialzo dei tassi di interesse, magari non due come era stato pronosticato, diciamo, per questo trimestre e per il prossimo. Qual è la situazione che in questo momento contraddistingue l'America? È una situazione dove comunque i consumi reggono, anzi stanno migliorando su determinati settori come per esempio quello tecnologico degli smartphone e via dicendo, e dall'altra parte ci troviamo con un sistema bancario molto in salute, quindi un potenziale irrigidimento della curva o diciamo un rialzo dei tassi di interesse è ossigeno per le banche che riusciranno a mettere in circolo ancora di più il credito, quindi vediamo una situazione ancora positiva, già scontata dalle aziende, quindi non vediamo dei grossi stravolgimenti qualora ci fosse rialzo di interesse, dei tassi di interesse nell'ultimo trimestre, ma soprattutto vediamo delle banche che saranno in grado ancora di più di erogare crediti e quindi di favorire la sostenibilità della crescita americana. Prospettiva che non possiamo dire di poter anticipare anche per la situazione delle banche europee alla luce anche della nuova stretta che la BCE è pronta ad effettuare. Ne abbiamo parlato anche diffusamente ieri sulla gestione dei crediti non esigibili. Adesso magari ne parliamo, però Aspesi, c'è una domanda di Maria d'Alessandria e mi fa piacere che venga fatta questa domanda perché con qualche suo collega in qualche puntata precedente avevamo in realtà ragionato anche da un altro punto di vista su questo forte rialzo del mercato azionario americano, e cioè bisogna anche considerare quello che è il movimento delle valute. Maria d'Alessandria, benvenuta, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie Maria. Niente, volevo soltanto sapere per quale motivo il dollaro nei confronti dell'euro stenta a salire, visto che le borse sono molto, le borse americane sono molto attive, le industrie sono molto attive, i consumi sono forti, per quale motivo il dollaro non, a parte i mesi passati che aveva appunto recuperato tanto, ha continuato a scendere, certo, e non riesce a recuperare? Beh, intanto Maria, per un'economia, quando una valuta è competitiva, le aziende che esportano molto ringraziano, no? Allora, che idea ha lei di questo rapporto di cambio fra euro-dollaro che stamattina è attestato a 1,1764, c'è stata dopo anche l'esito referendario della Catalogna un'altra discesa vistosa per l'euro sul biglietto verde Aspesi, ma abbiamo anche avuto un livello a 1,20 nelle scorse settimane. Qual è il rapporto, come si dice in gergo finanziario, fair, insomma corretto, che esprime la... Allora, qui entriamo veramente nella sfera magica delle previsioni, in quanto comunque soprattutto i rapporti tra le valute hanno molteplici fattori che possono influenzare il corso attuale, e molti alcune volte hanno degli aspetti di previsione o di anticipo di quello che poi saranno le fattive manovre messe in essere da parte delle amministrazioni. Abbiamo visto che Trump ha avuto dei problemi per quanto riguarda l'approvazione della riforma sanitaria, abbiamo visto che Trump soprattutto dopo il primo periodo di mercati euforici dovuti alla sua elezione, al suo piano del famoso trilione di dollari da investire nelle infrastrutture, ha visto più difficoltà a realizzare concretamente quelle che sono state le sue, diciamo, affermazioni, nonostante avesse dalla sua parte le due camere degli Stati Uniti, e questo sicuramente è stato un fattore che ha un po' raffreddato, diciamo, il consensus sul fatto che l'America potesse immediatamente implementare queste scelte, tant'è che sono passati ormai svariati mesi e oggi si inizia ad affrontare concretamente per esempio questa diminuzione delle tasse. Questo è un aspetto. L'altro ovviamente è il fatto che l'America sta crescendo, ma non sta crescendo a dei tassi di crescita come è stato nei trimestri o negli anni precedenti, e quindi questa, diciamo, stabilizzazione della crescita intorno al 2% è un segnale che l'economia cresce, ma non cresce forte quanto era stato previsto dai mercati precedentemente. Certo, sì. Questi sono i due aspetti che in questo momento stanno condizionando il dollaro, che tecnicamente dovrebbe essere più forte, certo, rispetto a quello che vediamo oggi. Senta Aspesi, mi dia un assist per trasferirmi nella seconda parte della trasmissione. Per chi si lasciasse suggestionare da questo rialzo del mercato americano e da questi valori record, decidesse adesso di andare a puntare sul mercato azionario a stelle e strisce. Noi, come dire, un piccolo risparmiatore magari suggeriamo di muoversi con un po' di cautela, ma quali sono gli errori tipici che si rischiano di fare in una fase come questa? Perché tra poco analizzeremo il rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane che ancora qualche errore lo commettono, quindi su questo punto in particolare cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che diciamo ritorna in auge la parola ansia. Spesso si fanno degli acquisti più motivati da discorsi di pancia che discorsi razionali. Se un investitore oggi ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo davanti a sé, può tranquillamente considerare l'investimento nei mercati azionari americani un investimento importante, almeno dal punto di vista della diversificazione. È chiaro che se invece la scelta è quella di dire entro con un'ottica di mordi e fuggi, in questo momento potrebbe essere abbastanza pericoloso considerare i mercati americani. Uno, perché la valuta potrebbe muoversi diversamente da quello che lui ritiene. Due, e penso che poi verrà affrontata anche successivamente, l'investitore privato tipicamente quando vede degli investimenti in perdita, piuttosto che vendere, decide di tenerli vita natural durante perché spera sempre di un possibile recupero. Quindi dipende un po' da quello che è l'attitudine di un investitore. Chi ha pazienza può tranquillamente considerare i mercati americani un'ottima fonte di investimento. Chi magari è più abituato a un'ottica di trading, forse in questo caso è meglio guardare delle allocazioni diverse dall'azionario America. Delle banche europee parliamo in un'altra puntata. Grazie ad Alessandro Aspesi per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. È in maniera un po' rock quella con cui commentiamo oggi il rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Le rilevazioni per il 2016 confermano, il rapporto 2017 sulle rilevazioni 2016 confermano che le competenze degli italiani in materia di investimenti finanziari rimangono ancora limitate, sia per i profili attinenti alle conoscenze, sia per gli aspetti relativi ad attitudini e modelli decisionali. Tutti concetti un po' complicati che adesso viene a decifrare per noi Nadia Linciano, capo dell'ufficio studi economici di Consob, che ci fa particolarmente piacere avere con noi questa mattina. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Due di denari. Parliamo delle scelte finanziarie delle famiglie italiane, delle scelte di investimento e le nuove rilevazioni Consob divulgate ieri a Roma. Naturalmente ci piacerebbe anche sapere qualcosa di più rispetto alle vostre scelte. Qual è l'ambito in cui temete di più di sbagliare? Stiamo mettendo questo piccolo sondaggio su Twitter, rispondete e vedremo che percentuali emergeranno. Il controllo delle spese vi preoccupa? L'indebitamento, la scelta degli investimenti giusti? Nadia Linciano, capo dell'ufficio studi economici di Consob, ancora buongiorno. Tante le novità emerse da questo rapporto rispetto alla rilevazione precedente, però purtroppo dobbiamo ancora documentare che le conoscenze finanziarie degli italiani rimangono limitate, ma non abbiamo proprio nessun piccolo segnale di miglioramento rispetto alla tendenza che è emersa negli ultimi anni, Linciano? Buongiorno, sui concetti finanziari di base ahimè non abbiamo grossi segnali di miglioramento. I concetti di base sono l'inflazione, ma anche la relazione tra rischio e rendimento, cioè il fatto che all'aumentare del rendimento aumenti anche il rischio finanziario, e poi l'altro fondamentale concetto di diversificazione del portafoglio, insomma, che si riaggancia un po' alla massima di buon senso comune, non mettere tutte le sue uova nello stesso paniere. E su questi fronti, ahimè, le percentuali con le quali i nostri intervistati danno delle risposte corrette si mantengono ancora basse. In particolare ricordo l'inflazione, che comunque è un concetto con il quale ci misuriamo ogni giorno, viene correttamente compreso soltanto dal 53% degli intervistati. Stiamo parlando di un campione di 2.500 persone rappresentativo della popolazione dei decisori finanziari italiani. Infatti gliel'avrei proprio voluto chiedere come era composto il campione, quali risparmiatori sono stati interpellati per costruire la vostra indagine. Dottoressa Linciano, ecco, a fronte però delle competenze che sono ancora molto modeste, in realtà le persone ritengono di saperne di più rispetto a quello che in realtà sanno e sopravvalutano le proprie competenze in materia di investimenti, e questo naturalmente comporta poi anche fare degli errori quando si fanno scelte per sé e per la propria famiglia. Certo, noi abbiamo rilevato quest'anno, anzi abbiamo affinato quest'anno rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, la misurazione della conoscenza percepita, perché per ciascuna delle domande che abbiamo posto abbiamo innanzitutto chiesto agli intervistati se avessero mai sentito parlare di quel concetto e se lo avessero compreso. Misurando quindi il disallineamento tra la conoscenza percepita e quella reale, effettiva, abbiamo elaborato un indicatore di sopravvalutazione delle proprie capacità che ahimè riguarda una percentuale stimabile attorno al 30% degli italiani. Ci sono anche persone che sottovalutano le proprie capacità, ma questa è una fascia più ridotta. E come diceva giustamente prima, effettivamente sopravvalutare le proprie capacità può spingerci magari ad assumere troppo rischio oppure a investire in maniera autonoma, quando invece sarebbe opportuno consigliarsi con un esperto. Mm-hmm. Anche se devo dire che poi il tema della fiducia con il consulente che ci segue nelle scelte è un altro grande ambito che andrebbe monitorato con grande attenzione, perché vedo da molti messaggi che ci arrivano che ancora affidarsi completamente ad una persona che ci segue in questi percorsi di vita è un'attitudine a cui si lasciano trasportare con molta difficoltà gli italiani. Circa la metà degli intervistati colpisce molto questa parte della rilevazione, dottoressa Linciano, dichiara di provare ansia finanziaria. Ci può argomentare un po' meglio questa parte? Ansia derivante da che cosa? Dal fare scelte sbagliate o dal vivere fasi avverse di mercato dalle quali non ci si può proteggere? Che cosa la determina? L'ansia quest'anno nel rapporto è stata misurata, però sicuramente un passaggio successivo sarà proprio cercare di determinarne gli elementi che la possono causare, che la possono originare. Dalle nostre rilevazioni emerge che effettivamente anche controllare ad esempio il proprio conto corrente può essere vissuto con apprensione, oppure che si può preferire di delegare ad un altro la gestione delle proprie finanze personali, oppure ancora si può essere in qualche modo rassegnati e pensare che le proprie scelte personali non contano nulla, perché tanto l'esito finale della scelta verrà deciso da qualcun altro, verrà condizionato dall'ambiente esterno. Quello però che noi possiamo osservare è che effettivamente l'ansia si collega e si associa in maniera negativa con le conoscenze finanziarie, quindi saperne di più, avere quantomeno dei punti di riferimento su come funziona il sistema finanziario, su quali sono gli elementi che noi dobbiamo valutare prima di prendere una scelta, ci aiuta ad arginare le preoccupazioni, certo. Sì, ad arginare le preoccupazioni, certo. Senza richiedere di diventare degli esperti. Assolutamente, anche perché ognuno deve fare il suo lavoro, naturalmente, però dobbiamo diventare esperti di noi stessi. Noi questo lo raccomandiamo spesso. Dottoressa Linciano, nonostante tutto, però, nonostante l'ansia finanziaria, nonostante le competenze che possono ancora crescere molto, nonostante le preoccupazioni, gli italiani risparmiano ancora molto e il 60% del vostro campione dichiara di risparmiare in maniera regolare. Molti non ce la fanno, ma la gran parte ce la fa e insiste nel darsi anche un metodo di accantonamento. Sì, effettivamente, fortunatamente continuiamo ad essere un popolo di risparmiatori. Bisogna dire che la crisi finanziaria in realtà ha segnato una battuta di arresto, tant'è che il tasso di risparmio dell'intera popolazione italiana, che come sappiamo è stato sempre tradizionalmente, storicamente molto più elevato di quello di altri paesi, in particolare dei paesi europei, era sceso al di sotto della media dell'Unione Europea e si mantiene ancora su un livello inferiore. Noi siamo all'11%, mentre la media europea credo che si attesti a almeno 2 punti percentuali in più. Il dato positivo è che comunque negli ultimi anni il tasso di risparmio degli italiani ha ripreso a crescere. È chiaro che affinché questo risparmio si traduca poi in crescita economica per l'intera nazione, le somme accantonate devono essere anche investite e invece sappiamo che soprattutto nei periodi di crisi la propensione per la liquidità, diciamo, aumenta in maniera significativa e devono essere soprattutto investite bene, cioè dirette verso le iniziative economiche più meritevoli e più produttive. E insomma, accumulare sì, ma non farlo senza senso, dare un obiettivo alle nostre scelte di investimento. Dottoressa Linciano, c'è un altro punto molto importante di questo rapporto che io vi ho rubato perché adesso lo approfondirò con il prossimo ospite, ed è quello che ci dice che le caratteristiche di un processo decisionale adeguato che consideri gli elementi fondanti di una scelta di investimento, che sono la definizione degli obiettivi, l'orizzonte temporale, la capacità di sopportare il rischio sono caratteristiche che rimangono oscure per oltre il 40% del campione interpellato, che prima di investire non valuta in maniera specifica alcuno di questi elementi. Prima di commentare questo con il prossimo ospite che tra poco vi presento, vorrei però metterci anche un paio di testimonianze di ascoltatori che come sempre ci aiutano ad animare il dibattito e a concretizzarlo anche molto. Allora, vediamo un po', Giuseppe da Napoli e Stefano da Padova cosa ci raccontano. Abbiamo chiesto loro di condividere con noi quelle che sono le loro preoccupazioni economiche e qual è l'errore che ritengono di aver compiuto, che cosa genera in loro in questo momento ansia finanziaria. Giuseppe da Napoli, benvenuto. Buongiorno, dottoressa Rosciani. La ringrazio per questa seconda opportunità di intervento. Noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa perché io sono un investitore privato e all'epoca lei conduceva Salvadanaio. Quasi della preistoria, Giuseppe. Sì, la chiamai in effetti per la fusione tra Microsoft e Nokia. Quindi, capirai, anche me la ricordo, Giuseppe. Vada adesso al tema perché abbiamo minuti allora, preziosi, sì. Perfetto, allora, non so se la domanda è pertinente con il tema del giorno. La trasformo io. Allora, nel quadro di un ottimale ribilanciamento di un enorme portafoglio titoli, che però è complessivamente in territorio negativo, volevo sapere se è possibile pensare a una più efficace strategia di risparmio. Come si fa a riorganizzarsi, insomma, quando si hanno in portafoglio titoli in perdita e non li si sopporta più, non si sopporta più di vedere quel bilancio in rosso, Giuseppe, che lì insiste, persevera e non quella freccia, insomma, non si ostina a non cambiare direzione. Ci faremo dare adesso un metodo, vediamo se il nostro interlocutore lo sa. Allora, guardate, ve lo presento subito prima di andare al traffico. Si chiama Daniele Cottino, in rete tra i colleghi è meglio conosciuto come Giacomo Saver, quindi da save, risparmiare, conservare, è il nickname che ha scelto per animare il suo sito segretibancari.com. Buongiorno, benvenuto Cottino e grazie. Grazie a voi. O devo chiamarla Giacomo Saver, come preferisci? È la stessa cosa. Allora, si studia una bella risposta da dare a Giuseppe da Napoli, poi la interpello anche sugli altri temi proposti dal rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Prima di salutarla, Nadia Linciano, come si documentano e informano gli italiani? Lo fanno in maniera corretta o ancora non vanno a caccia nella maniera giusta delle informazioni anche per fare delle scelte corrette? Ma ancora la propensione a documentarsi non è molto diffusa, è chiaramente più diffusa tra le persone che hanno delle conoscenze finanziarie più elevate, l'uso del canale internet è marginale, chiaramente investe soprattutto le persone che hanno anche delle competenze digitali più alte, perché non bisogna dimenticare poi che i nuovi sviluppi tecnologici, anche il fenomeno del fintech al quale Consob sta dedicando un approfondimento e uno studio, richiede un bagaglio conoscitivo ancora più pesante all'investitore, cioè non soltanto le conoscenze finanziarie ma anche quelle digitali diventano importanti. L'altro aspetto interessante riguarda la propensione verso l'informazione finanziaria, insomma, quella che ci comunica le caratteristiche di costi, rischi e rendimento dei prodotti finanziari. Ora, una percentuale degli italiani, il 57%, non legge i documenti informativi, il restante 43% lo fa in autonomia. In parte in autonomia, diciamo un quarto degli italiani lo fa da solo senza l'ausilio del consulente, però il dato importante è che appunto i documenti informativi rimangono ancora troppo lontani E sono dei tomoni, dottoressa Linciano, d'altronde sì, non è che ci invogliano proprio a leggere. Sì, a me stupisce che anche il 43% insomma dichiari di leggere, però probabilmente c'è anche la voglia per questa fascia degli italiani di poter toccare con mano le informazioni. Infatti. Allora, lavoriamo un po' per semplificarli, la Consob è impegnata anche su questo versante. Dottoressa Linciano, grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie mille. Velocemente al traffico e poi diamoci un po' di metodo per risparmiare al meglio. Due di denari. I'm a businessman. I'm a businessman. Allora, ne parliamo tante volte, gli italiani hanno una capacità di accumulo incredibile, ma alla capacità di risparmio non corrisponde razionalità di risparmio, perché c'è scarsa diversificazione, lo dicevamo poco fa, molta concentrazione delle risorse accantonate, poca pazienza, caccia al rendimento immediato, poca pianificazione e molta logica di breve termine. Giacomo Saver, in realtà si chiama Daniele Cottino, Giacomo Saver è il nickname che ha scelto per il sito segretibancari.com. Se andate a caccia di informazioni segrete in questo sito non ne trovate, ma trovate, Cottino, magari spieghiamolo, qualche buona idea per investire e risparmiare con metodo, perché questa forse è la grande lacuna degli italiani, no? Sono ancora purtroppo un po' troppo pervasi da quell'ansia finanziaria che raccontavamo prima. Lei la riscontra anche tra le persone che segue in qualità di consulente finanziario? Sì, in realtà non sono un consulente finanziario, sono un formatore, un coach finanziario, diciamo così, che si occupa appunto di diffondere il buon senso e quella cultura finanziaria di base che purtroppo nel nostro paese scarseggia. E coloro che Giuseppe, l'amico che ha posto la domanda poco fa, rappresenta veramente un po' il classico caso della persona che si approccia al mio sito e che appunto molte volte non sa che cosa fare. Ma quello che possiamo dire per rispondere all'amico è molto semplice. La sua intanto è una situazione diffusa, non c'è nulla di drammatico, ma è la risultante, secondo me, di un processo, o meglio della mancanza di un processo di investimento, perché sovente che cosa fa l'investitore italiano? Chiede in giro, si informa, sente la sua banca, identifica dei prodotti finanziari del momento in cui investire, quindi investire il suo patrimonio diventa la ricerca del miglior prodotto, senza una strategia, per cui uno non sa esattamente perché ha comprato un certo titolo, fondo di investimento o quant'altro, non sa quando venderlo, e magari proprio perché è alla ricerca del guadagno immediato non mette in conto la possibilità che il titolo possa andare in negativo, no? Sovente le persone fanno degli investimenti a breve termine, poi si trovano in perdita e automaticamente quell'investimento di breve diventa un investimento di lungo termine. A volte poi alcuni perseverano nell'errore, cioè mediano in perdita senza capire esattamente perché lo fanno, solo perché nella loro emotività diventa problematico accettare una perdita pregressa e quindi un errore. Poi che cosa succede? Che siccome non sempre, ma spesso esiste un fenomeno noto come il ritorno in media, strumenti finanziari che hanno reso molto in passato, magari nel futuro prossimo renderanno meno per compensare questo eccesso. Ora, visto che l'investitore nel selezionare i prodotti molto spesso guarda al passato recente, si trova in tasca degli strumenti finanziari che sono saliti molto e che sono destinati poi a perdere. Ecco perché la mancanza di un metodo e la mancanza anche della conoscenza di se stessi, unita anche poi con l'overconfidence, molte volte le persone dicono ma io compro i titoli perché poi seguo il mercato, come se fosse sufficiente seguire l'andamento di un paniere di strumenti finanziari per capire che cosa succederà, dimenticando che nella notte tutto può succedere, il mattino dopo accendiamo i computer e il titolo in questione ha perso magari 20%. Esatto, fa uno starnuto alla borsa cinese, come c'è già successo nei mesi passati, di assistere e scende tutto in maniera inaspettata e nessuno immaginava mai che magari, ecco, un fatto molto lontano da noi potesse scuotere in maniera così vistosa invece il nostro portafoglio, il nostro investimento. Giacomo, le faccio sentire anche la considerazione di Stefano da Padova, perché avevo appunto interpellato degli ascoltatori. Stefano sta lì da un po'. Intanto vi comunico che il nostro sondaggio su Twitter ci dice che per il 40% delle persone che hanno risposto il tema di maggior preoccupazione per quando pensa a se stesso, appunto, una persona come risparmiatore, la preoccupazione più grande è quella del controllo delle spese. Il 50% ci risponde che è quella della scelta degli investimenti, il 10% l'indebitamento, sono le paure appunto più sentite. Quindi la più importante è quella della scelta degli investimenti e la paura di fare delle scelte sbagliate. Ecco, cerco di interpretare in questa maniera. Stefano da Padova, se ce la fa in 30 secondi, grazie. 30 secondi, allora la mia vorrebbe essere una telefonata, un intervento di servizio, nel senso che io mi sono fidato della fiducia garantita da una grossissima impresa di assicurazione per sottoscrivere una polizza vita, che mi è costata molti sacrifici nell'accumulo e che adesso quando ne ho bisogno mi trovo di fronte ad un importo in riscatto molto inferiore e in più da tassare. Quindi le imprese assicuratrici vendono il sogno della tranquillità che noi paghiamo a caro prezzo. Certo, Stefano, allora il tema delle polizze vita con grandi caricamenti iniziali e che disincentivano ovviamente chi vuole effettuare un riscatto anticipato è un tema noto. Giacomo Sever, però, a quanto pare c'è ancora molto bisogno di informare di più su questi aspetti che vengono ancora trascurati e sulle quali ovviamente le compagnie di assicurazione non sempre si preoccupano di fare la massima chiarezza. Purtroppo tra un minuto terminiamo, ma la richiamerò a più presto. Un ultimo commento, anche legandoci al caso di Stefano. Ma secondo me, di nuovo, il problema base dell'italiano è una scarsa cultura finanziaria e anche un rigetto a prescindere della materia, perché molte persone erroneamente pensano che la finanza sia difficile e, come diceva la dottoressa Vinciano, non leggono i prospetti informativi, non si interessano. Noi dedichiamo magari tantissimo tempo per informarci sulle caratteristiche tecniche dell'ultimo smartphone che andiamo a comprare e non dei nostri soldi. Dovremmo fare il contrario, così come nessuno sa esattamente quali sono le caratteristiche tecniche di un apparecchio tecnologico, ma ci può arrivare con l'impegno, può altrettanto fare a livello finanziario. L'ascoltatore di Padova in realtà sottolineava che soprattutto per il settore assicurativo sempre lo strumento assicurativo viene venduto, distribuito come protezione totale del nostro risparmio, invece in realtà funziona come uno strumento finanziario a pieno titolo. Ma ci torneremo. Un altro tema che affronteremo, Giacomo, con lei è come non farsi ossessionare dal controllare sempre il portafoglio, ma fare una manutenzione periodica, non giornaliera, perché quella sì che ci genera ansia. Ci torniamo presto, noi torniamo domani con Due di Denari. Buona giornata.